Questa strana famiglia non la vuole mai nessuno, ma la colpa è sempre di qualcuno. Quanto vale questa vita se sei cieco d'emozioni, come un morto che cammini, se non senti il pianto di un bambino. Ora fermati, ascolta questo suono da lontano. Ora fermati e pensa, metti in moto il tuo cuore. Ho bisogno. Que tu